La bolla africana è un evento anomalo, la fa delle 13, mi chiude lo stomaco, dorme male lo stivale, non si riesce a respirare. Se ci fosse un posticino per potermi riparare, cerco solo un poco d'ombra, un angolo di tenebra, un boschetto, una radura per calar la palpebra, l'asfalto che si liquefa da sotto le suole. Mi perdoni signorina, chiedo asilo, protezione. Lì, sì, lì, lì dove non batte il sole. Lì, proprio lì, lì dove indica il navigatore. Lì, sì, così, all'altezza della biforcazione. Lì, proprio lì dove infila volentieri il muso il formichiere. Segui la bretella, scendi giù dopo l'ascella, gira la rotonda, svolta al centro, segui l'ombra. Non ti puoi sbagliare, non c'è margine d'errore. Lì, sì, lì, lì dove non batte il sole. Ma che estate all'italiana, Tintarella e Solleone, anche lungo il bagnasciuga si è a rischio coccolone. Notte e giorno è tutto un forno, fanno festa le zanzare, si intervista nei TG, pure l'acqua, le fontane. Tengo le finestre aperte, le mutande a terra, non c'è un filo d'aria, maledetto effetto serra. Come un orso sopra il pack, soffro i colpi di calore. Volontari ambientalista, chiedo la deportazione. Lì, sì, lì, lì dove non batte il sole. Lì, proprio lì, lì dove indica il navigatore. Lì, sì, così, all'altezza della biforcazione. Lì, proprio lì dove infila volentieri il muso al formichiere. Segui la bretella, scendi giù dopo l'ascella, gira la rotonda, svolta al centro, segui l'ombra. Non ti puoi sbagliare, non c'è margine d'errore. Lì, sì, lì, lì dove non batte il sole. Lì, sì, lì, lì dove non batte il sole.